ever was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my encyclopedia. They must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watch word. Just peel out the watch word. Ciao a tutte, ciao a tutti. Cominciamo questa trasmissione con una notizia che riguarda il 22 Resiste. Allora, questa mattina l'ufficiale giudiziaria, nell'ennesimo tentativo di accesso alla sede femminista e lesbica del 22, ha dato un rinvio al 17 luglio. Quindi dai, dai, dai, 22 Resiste. Ciao a tutte e ciao a tutti. Volevamo ricordarvi che sabato 12 aprile alle ore 14 ci sarà la manifestazione nazionale che partirà da Porta Pia a Roma. Contro precarietà e austerity, i diritti si conquistano a spinta. Una sola grande opera, casa e reddito e dignità per tutti, questo e tutte. Questo è il manifesto. E leggendo dal comunicato dei movimenti sociali, la gestione del denaro e del reddito saranno al centro delle mobilitazioni e delle lotte che costruiranno la manifestazione del 12 aprile. I movimenti di lotta per la casa, studenti e studentesse, precari e precarie, migranti, lotte territoriali, resistenze operaie, sindacati conflittuali, centri sociali, dentro questo percorso multiforme e comune, intendono realizzare l'accumulo di forze necessario a rovesciare un modello di sviluppo basato sempre più sul lavoro precario, sulle privatizzazioni, sullo sfruttamento, la devastazione dei territori, il saccheggio dei beni comuni. Questo modello trova nell'Expo di Milano una rappresentazione plastica di come attraverso il governo della crisi si voglia imporre a tutti e a tutte, in maniera sempre più pesante e totalizzante, le leggi del mercato e del profitto. Dentro questo ragionamento La proposta di Job Act, avanzata da Matteo Renzi e dal PD, rappresenta una dura riproposizione della precarietà e dello sfruttamento come unico orizzonte possibile. Come pure l'accordo sulla rappresentanza sindacale raggiunto tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, testimonia l'instaurazione di un vero e proprio regime autoritario sui posti di lavoro, con la negazione di qualsiasi spazio di agibilità e la soppressione stessa della voce dei lavoratori e delle lavoratrici. In generale, appare necessario soprattutto determinare una rottura netta con il ricatto posto in essere attorno alla questione della produttività e della presunta possibilità di generare nuovi posti di lavoro. Ricatto che spinge le nostre vite a piegarsi in una spirale senza fine agli interessi dell'impresa e del capitale, e dal quale dobbiamo sottrarci attraverso nuovi sentieri e pratiche di riappropriazione. In questo quadro risulta inoltre necessario andare oltre la guerra tra poveri, tra lavoro dipendente e piccolo lavoro autonomo, rovesciando il discorso imposto dall'alto per una tassazione dei grandi patrimoni e della rendita finanziaria e immobiliare. E poi ancora, la caratteristica meticcia dei nostri percorsi, il protagonismo diretto dei migranti e dei rifugiati, oltre e contro qualsiasi logica buonista ed assistenziale, trova una sua forte espressione nelle lotte per la chiusura dei CIE e dei CARA, per la libertà di movimento e la rottura fra qualsiasi legame tra soggiorno e lavoro, per l'uguaglianza e i diritti contro ogni forma di razzismo e fascismo. E perché vi abbiamo letto il comunicato della manifestazione di sabato 12? Perché noi come femministe riteniamo che il femminismo debba stare dentro gli infiniti processi di alterità a questa società. Proprio perché il femminismo è un movimento di decolonizzazione dal quotidiano patriarcale, no? Cioè in tutti i giorni, in tutti i momenti della nostra vita noi cerchiamo di contrapporci all'oppressione patriarcale, e quindi, e l'oppressione patriarcale è un processo sociale e non possiamo farci chiudere negli steccati dell'emancipazionismo, perché proprio per il motivo che il femminismo è lotta di genere e di classe, essendo lotta di genere e di classe, ha una caratteristica in più oltre alla semplice lotta di classe. Cioè il femminismo non lotta solo per sé, noi non lottiamo soltanto per la liberazione delle donne, non facciamo soltanto una lotta di genere, noi ci vorremmo e ci dobbiamo fare carico dell'abolizione di tutte le gerarchie, di tutti i ruoli, di tutti i generi, di tutte le classi. È un movimento di liberazione a tutto campo. It's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten kills the both of us, to die by your side. Prima di dire come il femminismo può stare in tutte le multiformi azioni di alterità a questa società, volevamo un attimino fare il punto di chiarire dove siamo messi e dove siamo messe, dove siamo collocati e dove siamo collocate. Questo perché? Perché qualsiasi tipo di rivendicazione, qualsiasi tipo di azione non può prescindere dalla comprensione del momento che attraversiamo. Allora, tutti dicono, tutte dicono, o meglio, ci fanno dire che è in atto una crisi. Allora, parlare di crisi è vero e falso allo stesso tempo, è comunque fuorviante. Perché? Perché in effetti la crisi è per noi che la subiamo, nel senso tutte le soggettività subalterne, oppresse, sono in difficoltà sia economica che per il controllo sociale, che per la gestione della propria vita, ma siamo noi che siamo in difficoltà. non è una crisi vera e propria, è in atto una ristrutturazione tra le diverse proporzioni del capitale, cioè è in atto una ristrutturazione dei rapporti di forza fra le multinazionali e gli stati. E la teoria della crisi serve praticamente ad ancorare la società a un riferimento oggettivo e a rimuovere la possibilità di superare questo momento oggettivo. Perché? Perché nel momento in cui ti dicono che c'è una crisi, tu dovresti essere partecipe, dare il tuo contributo, mobilitarti con tutte le tue forze per uscire e collaborare per uscire da questa crisi. Mentre l'unica vera possibilità che abbiamo noi come soggettività subalterne, come oppressi e come oppresse, per uscire dalla crisi nostra, però non dalla crisi del capitale, perché il capitale non è mai stato forte come adesso, non ha assolutamente nessuno che gli sia contro, è in atto una ristrutturazione dei rapporti di forza tra le varie componenti e le varie proporzioni del capitale. Quindi l'unico modo che abbiamo noi, l'unica strada che abbiamo noi, è riconoscere la situazione, organizzarci con le nostre ragioni e andare oltre, cioè cercare di uscire. Possiamo soltanto creare un movimento che cerchi di uscire da questa società, e in questo senso il femminismo deve dare assolutamente il suo contributo, perché la storia e la memoria del movimento femminista è una storia e una memoria di antagonismo, che ne dicano tutti i le posizioni emancipazioniste che hanno travisato, ucciso, falsificato, mortificato la storia di alterità del femminismo. Won't you move over? Nonostante la miseria offerta dal trascinamento dal femminista al femminile, l'accento sul femminismo e sulla nostra liberazione si presenta come altro, come una scommessa, un impegno oltre il presente. Momento attuale che pretende di annullare il conflitto e la ribellione e di piegare tutte e tutti, rassegnate e rassegnati, al dominio della merce. E a questo progetto, rinnovato ma sempre uguale, di oppressione su di noi, a questa dissipazione della libertà e dell'esistenza, le complici tendono a negare le loro responsabilità. Anzi, chiamandosene fuori, se ne rendono, proprio in questo modo, attive e partecipi anche e soprattutto nel banale dispiegamento della vita quotidiana. In prima fila ci sono le femministe riformiste, socialdemocratiche, le ortopediche del politicamente corretto, psicologhe, assistenti sociali, psichiatre, poliziotte buone, direttore di carceri, PD-ine e le loro appendici e similari e annesse e connesse, che nella loro non bella moltitudine, nella forza che viene loro dai media e dalle istituzioni, si mostrano e sono particolarmente disponibili alla cultura mortifera che ammorba il presente. Vittimismo, quote rosa, comitati per le pari opportunità sono note di una stessa partitura, sono la favola delle vecchie idee con lieto fine che si ripromette di sottomettere le esistenze concrete dei soggetti reali al rinnovato dominio del capitale e del patriarcato. Le oppresse e gli oppressi, le sconfitte e gli sconfitti sono l'altro, il disordine, generano la paura e quest'ultima si traduce in una sorta di ossessiva coazione all'ordine. L'unica via indicata da sempre dai teorici reazionari oggi è diventata il mantra ossessivo della sinistra riformista. Bisogna tenere a bada le oppresse e gli oppressi, rinchiuderli nel recinto del dominio. È questo il territorio della politica socialdemocratica e riformista, quello che definisce e impone le regole del gioco della vita. Mai come in questo momento per il femminismo è importante dichiarare la propria alterità rispetto a questa società e mobilitarsi per costruire qualcosa di diverso, perché il neoliberismo diciamo che attua nei nostri confronti uno sfruttamento specifico e molto preciso, nel senso che mai come in questo momento le lotte delle donne, le rivendicazioni delle donne, il nostro essere oppresso viene strumentalizzato da questo sistema. È proprio un'opzione che questo sistema si è dato, no? Come usa i diritti sul fronte esterno per sottomettere o per attaccare i paesi che sono non allineati, così sul fronte interno usa determinate soggettività, e una di queste soggettività siamo noi, cioè le donne in questo momento sono usate, cioè l'oppressione delle donne in questo momento, la violenza che noi subiamo dallo Stato e dal maschile, vengono usate specificatamente per come strumento di oppressione di tutti gli altri oppressi e di tutte le altre oppresse. Per cui noi, con la strumentalizzazione della violenza sulle donne per varare i pacchetti sicurezza, con la strumentalizzazione della violenza sulle donne per aumentare il controllo sociale, per presentare l'emancipazione come strumento di liberazione e quindi elogiare questa società. Quindi noi, mai come adesso, se c'è stato un momento in cui noi dobbiamo dichiarare la nostra alterità ed essere dentro gli infiniti processi di uscita da questa società, è proprio ora. Quindi ribadiamo l'appuntamento per la manifestazione di sabato 12 aprile, che partirà alle ore 14 da Porta Pia. I nostri intermezzi musicali sono sempre brevissimi perché abbiamo sempre pochissimo tempo. Infatti ci hanno detto: non ci fate mai sentire una canzone fino in fondo. Vabbè. Allora, perché questo? Perché la seconda parte della trasmissione, che cominciamo anzi un po' prima perché è lunghetta, riguarda il DDL carceri. Allora, che cos'è il DDL carceri? Il DDL carceri, secondo noi, è molto importante sapere che cos'è e dare una lettura di genere, proprio perché noi siamo, come al solito, come abbiamo detto prima, strumenti. Le donne oppresse e sono strumenti di oppressione. Allora, il 2 aprile 2014 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge che si chiama così: deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. E adesso vediamo che cos'è. Allora, per i reati puniti con una pena fino a 4 anni si potrà applicare la messa alla prova, ossia una misura alternativa al carcere che preveda un percorso di lavori socialmente utili per almeno 10 giorni. Il condannato dovrà prestare attività non retribuita in favore della collettività, ma sono esclusi da questa misura i recidivi, che sono circa il 70% di coloro che vengono condannati. Arrestati o detenzione domiciliare dovranno diventare una pena principale da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni che prevedono arresto e a tutti i delitti il cui massimo edittale è fino a 3 anni. Se invece il massimo va da 3 a 5, il giudice potrà concedere oppure no i domiciliari, tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere della persona. Si mette al centro la figura del condannato, il suo ambiente, il suo stato sociale, assai più che il fatto. Detenzione oraria. La detenzione non carceraria può avere durata continuativa oppure per singoli giorni della settimana o fasce orarie. Può essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico. Restano invece in carcere i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e chi non ha un domicilio idoneo o non rispetta le prescrizioni. Abolizione dell'istituto della contumacia, ossia per poter processare e condannare senza la presenza dell'imputato. Se l'imputato, dopo un primo tentativo di notifica, è irreperibile, il giudice sospende il processo, potendo però acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, dispone nuove ricerche dell'imputato, finché dura l'assenza, e comunque sospesa la prescrizione. Questo obbrobrio doveva essere da tempo abolito, poiché è assente in gran parte dei paesi. Depenalizzazione riguarda le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche fattispecie, come ad esempio l'omesso versamento, se non superiore ai 10.000 euro, di ritenute previdenziali e assistenziali o in materia di atti e spettacoli osceni, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Depenalizzato anche il reato di immigrazione clandestina, introdotto nel 2009 quando Roberto Maroni, ex ministro dell'interno, rimane la sanzione penale per reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione. Si tratta in pratica di una ratifica di un dato di fatto, perché l'introduzione di questo reato aveva creato molti problemi anche giuridici e non aveva rallentato l'immigrazione. era completamente inutile ovviamente. Probation, un istituto da tempo sperimentato per i minori per reati puniti con reclusione fino a 4 anni o pena pecuniaria o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. L'imputato può chiedere la sospensione del processo commessa alla prova. La misura consiste in lavori di pubblica utilità e comporta la prestazione di condotte riparatorie e, se possibile, risarcitorie, con l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. Se l'esito è positivo, il reato si estingue. In caso di trasgressione del programma di trattamento o nuovi reati, scatta la revoca e si va in carcere. Durante il periodo di prova la prescrizione è sospesa. La depenalizzazione e i domiciliari dovranno essere regolati con apposito decreto legislativo del governo, da fare al più presto, che dovrà rimanere all'interno di ciò che prevede la delega concessa da questa legge. Fondamentalmente allora che cosa succede? Che con questa nuova legge i domiciliari diventano pena principale per le condanne sotto i 3 anni. Cioè, secondo quello che si è proposto, quello che hanno detto, l'obiettivo è quello di svuotare le carceri, ma questo praticamente non è vero niente, nel senso che l'unico modo di svuotare le carceri è eliminare tutta una pletora di normative, tutta una normativa assolutamente iperbolica che prevede la condanna penale, che va dai comportamenti personali a reati di minima, alle leggi sugli stupefacenti. Cioè, praticamente l'unico modo per svuotare le carceri è questo, non sicuramente un provvedimento di questo tipo. Però succede una cosa, cioè questo è un tipo di impostazione che è molto simile a quello statunitense. D'altra parte, gli Stati Uniti si stanno ponendo, sono lo stato del capitale, non è quella verso cui stiamo andando, non è una società che noi ci dobbiamo inventare o che chissà quale sarà, è la società statunitense. Il dominio statunitense si esplica non tanto direttamente, non soltanto direttamente, non necessariamente armato, ma nell'egemonia culturale e nella impostazione sociale, secondo sociale, giuridica, economica, secondo il proprio modello. Allora, che cosa significa che i domiciliari diventano la pena principale per le condanne sotto i 3 anni? Allora, noi vorremmo dare prima una lettura un attimino generale e poi una lettura nostra di genere, perché in questo caso, anche in questo caso, è particolare. Allora, prima di tutto, quando si danno i domiciliari vuol dire che vengono coinvolti nella pena tutta una serie di territori, da quello della famiglia a quello del posto di lavoro a quello del quartiere in cui uno vive, in cui uno è collocato. Perché? Perché il controllo si esplica su chi frequenti a casa, su chi frequenti al lavoro, di fatto su come la famiglia, vengono di fatto, non esplicitamente ma di fatto sì, controllati gli ambienti che a margine della famiglia, a margine del posto di lavoro. Quindi, da una norma che sembra essere un vantaggio rispetto a tutta una serie di la carcerazione è sempre la carcerazione, quindi nessuno di prima acchito può dire ah no, i domiciliari sono peggio della carcerazione, però invece i domiciliari sono un momento, una possibilità ulteriore molto forte di controllo sociale. E questo perché ci riguarda oltretutto come donne? Perché? Allora, noi abbiamo fatto tempo fa 2 trasmissioni che potete trovare sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org, se andate sotto o palinsesti o podcast. Le potete trovare, 2 trasmissioni, 2 approfondimenti sulla detenzione al femminile. cioè che cosa significa per le donne in particolare essere detenute e quale risvolto ha la detenzione sul fatto che noi siamo condizionate in maniera molto diversa dal maschile, no? Tant'è vero che le donne delinquono tra virgolette di meno e ma questo non perché noi siamo buone, tra virgolette, no, è perché noi siamo estremamente più inquadrate, estremamente più normate di quanto sia il maschile, no? Allora, tant'è vero che noi nella famiglia dovremmo trasmettere i valori ai figli, i valori di questa società intendo. Allora, quindi le donne delinquono fra virgolette di meno, e soprattutto fanno reati di più bassa intensità, no? Di più bassa pericolosità sociale. Quindi è facilissimo che la quantità di donne che rientrano nei domiciliari sia sostanziosa, cioè che le donne molto facilmente avranno questo tipo di soluzione. Però questo che cosa significa? Che noi ancora una volta veniamo usate come veicolo di controllo sociale, veniamo usate, attraverso di noi controlleranno la famiglia, attraverso di noi controlleranno il posto di lavoro. C'è stata una bella intervista a Salvatore Ricciardi qualche giorno fa su Radio Onda d'Urto, che riportava i dati della società americana, in cui diceva che 5 non vorrei dire eresie, ma prendetelo come proporzione se non mi ricordo male, che 5 milioni di detenuti e detenute ai domiciliari o comunque alle misure alternative permettono il controllo di 50 milioni di persone. Sì, volevamo fare un inciso per darvi una comunicazione che ci è arrivata adesso e sul corteo che è partito oggi dalla Sapienza, il corteo dei movimenti per il diritto all'abitare, e si sono accampati a Porta Pia oggi e resteranno lì fino a sabato. Domani ci sarà un'assemblea nazionale in piazza alle ore 16 e tutto questo insomma in vista del corteo di sabato, come dicevamo prima. Allora, e adesso volevamo in realtà farvi presente che è stato fatto da i compagni e le compagne di Casale Alba 2 un ottimo opuscolo che riguarda proprio le forme di reclusione, che si chiama Oltre le mura del silenzio, breve viaggio alla scoperta delle forme di reclusione. È stato presentato, mi sembra, 2 sabati fa a Casale Alba 2 e diciamo che il progetto è partito anche perché, insomma, per chi non lo sapesse, il Casale Alba 2 doveva essere uno dei casali all'interno del parco di Aguzzano che doveva avere una nuova destinazione d'uso, cioè l'ICAM, cioè l'istituto di custodia attenuata per madri detenute. E quindi, insomma, diciamo che il loro ragionamento rispetto a quello che riguarda la repressione, carcere e tutte le varie forme di detenzione, quindi CIE, CAR, eccetera, e è, diciamo, stato uno dei primi stimoli anche nell'occupare, del evitare che, insomma, posti che vengono anche definiti, no, dai più democratici come posti, no, appunto per le mamme detenute poverine, gli vogliamo tanto bene, invece in realtà sono l'ennesima forma di prigione semplicemente con un nome differente. E in questo opuscolo ci sono, diciamo, si tenta di strutturare le varie forme di detenzione. La cosa interessante è che ogni esempio di ogni istituto, quindi la detenzione comune, maternità in carcere, istituto di pena per minori, l'ergastolo, la 41 bis, l'OPG, che è l'ospedale psichiatrico giudiziario, e poi CIE, hanno sempre sono sempre accompagnati da una breve intervista a qualcuno che, insomma, ha subito oppure gravita, perché magari è opera, per esempio c'è l'intervista di un'operatrice di una casa famiglia, un avvocato e per fortuna un evaso e quindi, insomma, è strutturato molto bene, perché dà veramente un'ottima visione di quello che sono le strutture carcerarie italiane, almeno come funziona il sistema detentivo. E vi consiglio di prendervi una copia direttamente là, però comunque per chi volesse dare un'occhiata c'è la copia integrale sul sito di Casale Alba 2, www.casalealba2.org. Questo perché, insomma, vi consigliamo soprattutto di leggere, dato che, insomma, stiamo tentando comunque di tessere anche le fila comunque della nostra visione comunque di genere rispetto alla questione repressiva e detentiva. E, a pagina 5, Dighe, lettera di una donna reclusa presso il carcere di Re Bibbia. È una bellissima lettera e vi consigliamo, insomma, di andare a leggerla sul sito. E appunto, insomma, quello che ci ha colpito è proprio la facilità con cui viene descritto tutto questo, insomma, sistema, che non è molto semplice da comprendere, anche perché, come ben sappiamo, molto spesso, proprio per una questione burocratica e amministrativa, che in realtà poi alcune pene passano, no, molto di più, perché appunto ci sta, come diceva prima la compagna, il carcere colpisce il proletariato, colpisce la classe debole, non colpisce ovviamente, ha un obiettivo ben preciso, non è così a caso e non è moralista e non è assolutamente in nessun modo etica nel senso più largo del termine, ma è un'etica che è ben strutturata. E adesso volevamo fare un collegamento con una compagna di Alba 2 che magari ci parlava meglio di questo opuscolo. scusateci, però purtroppo, come nostro solito, ormai chi ci ascolta ci conoscerà. Abbiamo problemi a fare il collegamento telefonico, però stiamo provando e vediamo se ci riusciamo, se no riprendiamo, insomma, la trasmissione. Que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido. Allora, purtroppo no, i telefoni oggi hanno deciso che non funzioneranno e quindi purtroppo non possiamo fare il collegamento con la compagna di casa dell'Alba 2, ma a questo punto, visto che vi abbiamo consigliato di leggere una parte dell'opuscolo, anche se, insomma, vi chiediamo di sostenere ovviamente tutto il lavoro fatto dai compagni e dalle compagne, vi leggiamo la lettera di cui parlavamo prima. Lettera di una donna reclusa presso il carcere di Rebibbia. La guardia apre la porta, entriamo, la guardia chiude la porta, avanziamo di 5 passi, un'altra porta, la guardia la apre, entriamo, la guardia la chiude. Ci troviamo in un corridoio, camminiamo, 5 passi, 10 passi, 15 passi, 20, 22, forse 23. La guardia apre la porta, entriamo, la guardia chiude la porta. Questa è la prima cosa che imparo in questo posto: alle tue spalle le porte devono essere sempre chiuse. Ti lascio indietro dighe deserrate. Al tuo passaggio si sussegue un dominio di ferro a rimarcare che hai perso il diritto di girare la maniglia. Ora siamo in uno stanzino senza finestre, solo la luce del neon asettica chirurgica a rendere reale l'irreale. E mi assale un puzzo di chiuso, umido, muffa, ma mi colpisce la vita degli scaffali che riempiono le 3 pareti, valigie, borsoni, scatoloni di cartone e buste, tante buste. Ognuno di questi contenitori è contrassegnato da un nome. Per un attimo mi respiro, mi tranquillizzo guardando i segni di altre presenze. Non sono sola, penso con una felicità egoista. Ci vive qualcun altro in questo posto e come un soffio mi attraversa l'idea che quella raccolta di cose altrui, distribuita lungo le 3 pareti, non testimonia la vita ma l'attesa. Mi spogli, si spogli, mi dice lei, donna come me, e di fronte alla mia inerzia mi ripete: si deve spogliare, la devo perquisire. La risposta che mi rotola dalla bocca, estranea, lontana, si limita a un come? di molteplici interpretazioni. Lei è un moto di stizza, intuisco che non sa se la mia è un'ostilità e le potrei creare problemi, o semplice stupidità e le potrò creare una perdita di tempo. Sfoglia un enorme registro e la mia domanda frena la sua mano. Un foglio rimane sospeso in verticale, ma non alza gli occhi, non mi guarda. Decide comunque di far compiere al foglio il suo destino, per un attimo interrotto da me. Gira la pagina e mi dice sospirando: si deve togliere tutto, le scarpe, la maglia, i pantaloni, le calze, il reggiseno, le mutandine. Le mutandine? Un diminutivo? Una parola che ha un vezzeggiativo. Mi fa salire dal profondo un conato di vomito. Le mutandine è una parola che implica intimità, detta ora in questo modo mi fa paura e stonata. Una parola, quattro sillabe che mi scioccano, presagio di tutto quello che perderò. Comunque mi piego, sì, lo faccio, non protesto, non ribalto, non allontano l'umiliazione. Mi piego, slaccio le scarpe e gli ultimi fili che mi tengono ancora fuori da tutto questo. Chissà perché, mentre compio questo rituale di separazione della mia vita, mi rifugio nel ricordo di mio padre. Lui che posa sulle mie mani di bimba, ancora inadatte a contenere e preservare, due ricci di mare ancora raccolti, appena raccolti. Mi dice di mangiarli così come sono, vivi. Io seduta su uno scoglio, lui chino sull'acqua e intorno a noi l'odore della vita umida. Mi spiega come vanno aperti. Mi spiega come vanno aperti, mi insegna come li devo assaporare. Piano, mi dice, se no non senti il sapore del mare. Io sono felice, il mare mi piace. Ritorno dove sono e sono nuda. Nuda la mia pelle, nudi i miei nei, nudi i miei peli, le mie ossa. Mi guardo i piedi, sono blu, ho freddo e ho paura. Questa paura è nuova, non l'avevo mai provata una paura così. Inizio a contare, 1, 2, 3. Distolgo lo sguardo dalle mie dita blu, 4, 5, 6, e lo fisso sulle mani della guardia che tengono il mio reggiseno, lo tassano nelle cuciture con perizia, con cura, 7, 8, 9. Ah, sei qui, irrompe la voce di un'altra guardia. Per un secondo credo che nella domanda amichevole sia rivolta a me e sono lì per risponderle. Entra anche lei e chiude la porta, non mi guarda. Pensavo fossi già andata via, non hai finito il turno? L'altra gira il mio reggiseno all'infinito e risponde che no, stava per staccare, ma appena è arrivata questa. Non mi guardano. 10, 11, 12. Dai, aiuto, prendi la mia maglia e inizia anche lei il rosario dell'ispezione sulle cuciture. 13, 14, 15. Rimango impalata, in attesa che mi dicano che ne devo fare del mio corpo nudo. Parlano della loro vita, della loro stanchezza, di quell'altra collega che se la svigna sempre prima non fa mai niente, hai capito? Oggi è successo di tutto, non ho neanche mangiato. 16, 17, bisogna parlare col commissario. 18, 19, ora la prima guardia ha lasciato andare il mio reggiseno mollemente sul pavimento e si adagia. La sua mano agguanta i miei pantaloni e inizia il peregrinaggio delle cuciture. 20, 21, 22, deve fare la flessione, dichiara con voce monotona, priva di tono. Chissà quante volte l'ha detto. Non mi guarda. Deve accovacciarsi e tossire per 3 volte. Niente musica nelle sue parole, nessuna espressione. Non mi guarda. 23, 24. Cosa devo fare 3 volte? Tossire? Accovacciarmi o tutte e due le cose? Se solo mi guardasse troverei la forza di chiederlo. Ma non mi guarda. 25, 26, 27. Piego le ginocchia, appunto i piedi, tossisco e mi faccio pena. Per 3 volte non mi guarda. 28, 29. My moon and me, not as good as we've been. Is it dirty, it's clean, oh no. Why can't my clothes leave on a high note? There's nowhere to go. No, but good. Take it slow, take it easy on me. It's just a light, just a light on me. Please take it slow. Ora la prima guardia ha lasciato andare il mio 28-29, scusate. Che paura ho? Se capissi cosa mi fa paura, forse riuscirei a controllarla, a farmela passare. 30-31. Non è paura di loro, delle due guardie che si stanno esibendo di fronte a me nella pornografia del controllo. Chiacchierano, non sembrano intenzionate a picchiarmi. E allora che cos'è questo panico che cresce? 32, 33, 34. Sono ancora accovacciata ed è così che mi trova quella consapevolezza densa, quella certezza collosa che non mi abbandonerà per molto tempo. Con uno strappo che è il suono di uno stridore, dentro di me si blocca la confusione e lucidamente capisco. Loro non mi vedono, mi rivolgono la faccia, la parola, ma non posano mai gli occhi su di me. 35, 36, 37. Sono uscita dal mondo. 38, 39, 40. E il mondo è autorizzato a non guardarmi, a non salutarmi, a non ringraziarmi, a non ascoltarmi, comprendermi. 41, 42, 43. Il mondo è legittimato a fare a meno della mia cortesia con me. Si giri, rimanendo accovacciata, non l'ho vista, dice la seconda guardia e punta i suoi occhi sulle mie ginocchia. Devo controllare se ha qualcosa infilato nell'ano o nella vagina. La formula del non senso. Su, si sbrighi, si metta di schiena. 45, 46, 47. E lì faccio la mia scelta. Voglio essere cortese con me. Mi sollevo e 48, 49, 50, 51. Dico no. Come no? E lei alza da tono e stridolo, finalmente un po' di musica nella sua voce, finalmente un'espressione. Rifaccia le flessioni e tossisca, non mi faccia perdere tempo. Io non l'ho vista. 52, 53, 54, 55, 56. Sì, lo so, lei non mi vede, rispondo. La mia voce è calma, consapevole, tenera. 57, 58, 59, 60. Mi guarda negli occhi. Fine della paura. I was taken by